Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Lestom Rock. Sono andato a pescarmi questa nuova base un po' più scatra, a modo di dire, perché sono qui con ormai posso definirlo un amicone da tanto tempo, perché ormai non so quante volte è venuto con i vari progetti, ci siamo incontrati diverse volte, ogni volta grandissime chiacchiere e mi fa sempre un grandissimo piacere. È qui collegato con me su Instagram, quindi ve lo vado ad introdurre con Olly degli Shandon, non quello che ha vinto Sanremo, ovviamente in battuta, anche se lì ricordo che su Instagram sono partiti diversi messaggi di non dico un incoraggiamento, però nel senso dovevi vincere tu, questo è l'Olly che noi vogliamo che vincesse Sanremo, ovviamente tutto in battuta, niente a che fare con l'Olly che effettivamente ha vinto Sanremo, però come dire, quarta, quinta volta non ho perso un po' il numero, quindi ciao Olly, bentornato sulle Lestom Rock. Ciao, mi sentite? Tutto bene? La connessione com'è? Ci sta, io da qua ti sento bene, aspettiamo anche qualcuno che si sta collegando magari tramite Instagram o magari sta seguendo la diretta per radio, quindi per chi segue la diretta per radio 333-180-94-94 il messaggio per potermi dire l'audio funziona bene oppure qualche domanda che ha da fare qui per Olly per il discorso Shandon, come stavo per dire in queste vesti più nuove, perché c'è il nuovo album Social Suicide che è uscito poco tempo fa, oppure per chi vuole c'è sempre Instagram che sta sempre lì pronto per poter scrivere un commento. Dato che mi sono ricordato, ma me lo sono andato anche a confermare, che la domanda sui NoFX te l'avevo già fatta, mi sono andato a pescare un'altra due piccole curiosità che ho trovato sugli Shandon. Curiosità su tutte piccolezze alla fine, meno male quando vai a cercare su Google Band X salta fuori rock band, punk band, per gli Shandon se vai a cercare su Google salta fuori coro, io non mi chiedere per quale motivo, però salta fuori Shandon, se tu vai a vedere anche dopo c'è scritto veramente Shandon coro, non so per quale motivo. Però una piccola curiosità, ovviamente immaginavo non ne fossi al corrente, però è giusto una piccola curiosità. L'altra piccola curiosità, mi sono trovato tra le mani un rock sound di praticamente 20 anni fa ed era uscito 69, quindi si parla più o meno 2004-2005, qualcosa del genere se non ricordo male, e in angolo in basso rock sound andava a dire le affinità che aveva la band, per dire, dice, se non la conoscete guarda, bene o male si può accostare a queste band. Per gli Shandon non so per quale motivo furono affiancate Foo Fighters, Faith No More e Madbones. Io guarda appoggio i Madbones perché dici bene o male punk rock e quant'altro, però Foo Fighters e Faith No More sinceramente io non me li vedo. Beh, Faith No More forse perché in quel disco lì c'era una cover dei Faith No More. Proprio tiratissimo, forse quello. Foo Fighters, insomma, no. Però diciamo che era un periodo dove diciamo si stavano rockizzando e un pochino meno, cioè quel disco lì non era quasi più ska, ce n'era una tipo, e quindi forse l'hanno vista così. Anche perché poi adesso i Foo Fighters, noi adesso li vediamo con 20 anni di carriera, ma all'epoca erano una band che aveva fatto due dischi e mezzo, quindi comunque. Esatto. Quindi vabbè. Non avevamo la percezione dei Foo Fighters che abbiamo adesso, ecco. Esatto. Quindi magari i giornalisti la vedevano come un punk rock che tira sul rock, quindi forse era quello. Non lo so, era giusto, guarda, è giusto col fatto che mi sono stato a sapevo che della domanda NoFX, che è quella introduttiva con cui vado bene o male a introdurre l'ospite, la puntata e quant'altro, sapendo avertela già fatta, mi sono trovato casualmente queste due curiosità, ho detto sai cosa, iniziamo un attimo così con due battutine per rompere il ghiaccio per un po', come si dice. Ma sei sicuro che se digiti Shandon non ti esce Cork con la K? No. E non coro? No. Coro. Sono veramente sicuro, perché l'ho provato anche su diverse piattaforme, per modo di dire, che possa essere PC, telefono, coro. Dopo, poi magari ho beccato io il telefono, non lo so, però magari anche tu, magari su hai il Google spagnolo, che ne so, però quello italiano salta fuori coro. coro. Ok, va bene. Accettiamolo e pazienza, per modo di dire. Iniziamo effettivamente l'intervista con Olly degli Shandon, questo album che dico personalmente, sapendo che sapendo anche tu che sono un fan degli Shandon, finalmente un nuovo album dopo 7 anni, quindi ricordo che avevi, dicevi spesso che avevi questo blocco per quanto riguardava lo scrivere per gli Shandon, e finalmente ti sei sbloccato con un album che effettivamente richiama effettivamente gli Shandon, finalmente dopo tanto tempo. Veramente in maniera super veloce, nel senso che non avevo in testa nemmeno l'idea di fare un disco, però un paio di promoter mi hanno detto: un altro giro, il best of l'avete già, diciamo, consumato il giro dei 30 anni, questo sarebbero già i 31, non ha tanto senso fare un altro tour dei 30 anni così, fai un EP, fai un singolo, fai un disco, che cazzo ne so. Ho detto va bene, sì, c'hai ragione, adesso mi invento qualcosa, e avevo una canzone e mezza ma che non mi piacevano, ho qualche idea lì nel telefono, ma quelle lì che poi le butti, diciamo. Esatto, che dici, rimangono lì. Esatto, e niente, poi è successo che io e Max, trombonista di Shandon storico, eccetera, eccetera, parlavamo sul fatto che in questo disco forse sarebbe meglio sfruttare la cosa che siamo dei boomer, parlando di cose che sono successe in questi 30 anni, quindi persone che abbiamo conosciuto, aneddoti o robe così. Ed è uscita una canzone super triste che si chiama 80-Year-Old Boy, e anche Max ha fatto un altro testo, un'altra situazione triste di un nostro amico che insomma ha una situazione familiare pesante, e da lì sono uscite due canzoni così, pam, veramente una ogni 2 giorni, e poi non mi sono più fermato non mi sono più fermato, perché ogni 2 giorni mi usciva un'idea nuova, un testo nuovo, pam, canzone, e a un certo punto avevo 12 pezzi e praticamente poi è successo che, per non perdere tempo, ho detto ma sai che, piuttosto che stare a fare il singolo così, visto che c'è questo entusiasmo, mi stanno uscendo i pezzi, vaffanculo, facciamo il disco, mi concentro queste 2-3 settimane, lo buttiamo giù, come se fosse una challenge. E quindi io qua a Tenerife facevo le chitarre in casa, le voci in casa, mandavo le tracce definitive al bassista e ai fiati, che poi loro si registravano in casa per i fatti loro, mi mandavano i file. Alla fine del, diciamo, chiamiamolo demo, di queste 11 canzoni, perché sono 11 più una 12 extra, diciamo, ho chiamato un amico che c'ha uno studio, e mentre io ero qua, il batterista Giulio è andato allo studio del nostro amico, in un giorno hanno fatto tutte le batterie del disco, mi hanno inviato i file, mixato tutto in pochi giorni, masterizzato, uscito. Fantastico. Così. Quindi diciamo che la cosa che dico spesso in questo periodo è che mi gasa il fatto che siamo sul palco a suonare canzoni nuove, che sono veramente nuove, mentre in passato, come chiunque ha una band, magari ci mette 1 anno, 2 anni, 3 anni a fare un disco, sali sul palco che c'hai il vomito, mentre questo giro la canzone nuova è nuova anche per noi che siamo sul palco, e non solo per la gente fuori, tipo che a volte oddio come fa questa, perché non me lo ricordo. Quindi, però dai, siamo felici di questa freschezza, di questa velocità. No, ci sta, anche perché io vi ho visto con questo super tour che è un attimo già partito, vi ho visto in quel di Ferrara, e ti dico che effettivamente anche da live l'impatto nuovo comunque si sente, anche perché comunque vedervi tutti carichi, e poi con questa sostanzialmente divisa nuova Shandon, perché tutti effettivamente con la stessa maglietta, con lo stesso kilt, e tutti... Quindi anche quello è molto carino, però ottimo che, come ti dicevo, finalmente siete usciti con il nuovo album. Riprendo la diretta e continuavo sempre con Olly negli Shandon a parlare dell'album. Ho visto la cosa curiosa che ha iniziato praticamente la settimana scorsa, mi sono perso qualcosa, però sa che qualcuno l'ho anche votata forse, che avevate fatto su Instagram questo challenge, mi è venuto in mente quando hai detto la parola challenge prima, però tutto per il discorso del disco, e avete fatto una challenge con i vari followers su quale è il pezzo preferito, bene o male, tra chi ascolta, e se non ho capito male dovrebbe essere Liar come ultimo. Sì, devo essere onesto, ci sono un sacco di parolacce in questo disco e nel mondo anglosassone, e specialmente poi nella parte americana, insomma, dove si parla in inglese, le parolacce non sono ben viste, specialmente in America, sai che c'è tutta questa parental advisory eccetera eccetera, sì. Però proprio ci sono delle radio che non ci passano perché c'è scritto fuck. Ah. E quindi you're a fucking liar, fucking non so. No, e poi mi fa ridere perché sai, Land of Freedom of Speech, freedom sto cazzo. Vabbè, e poi anche la cosa di Mr. President, so please fuck off and die, anche quella bocciata, non vai in radio in Inghilterra, è un po' troppo così, quindi vabbè, io diciamo che se poi vai in mezzo a una strada ovunque sei in Inghilterra è fuck ogni due parole, certo, però in un testo no, perché siamo, facciamo i perbenisti della minchia. Silenzio. Quindi silenzio. Vabbè. Invece poi per assurdo anche in America, New York, fuck, dappertutto, in California invece no, che sono un po' più diciamo cattolici eccetera eccetera. Ok. Però dice alla fine quindi, ma c'è un mi ha fatto strano che questo fucking liar non abbia avuto problemi, poi è andato bene anche in Germania e Spagna come, okay, come pezzo, anche negli Stati Uniti è il secondo paese che ci ascolta di più, perché adesso con Spotify for Artist puoi vedere chi ti ascolta un po', vero. Infatti stiamo già programmando di fare un festival l'anno prossimo in Virginia per suonare con gli Shannon. Quest'anno ci suoniamo con i Magnetics e vorremmo ritornare come Shannon l'anno prossimo. Bravissimo, hai tirato fuori un altro discorso che volevo appunto magari iniziare con col discorso degli Magnetics della volta scorsa, che mi avevi già raccontato di questa figata che farete in America, e mi avevi raccontato con il discorso dei Magnetics che semplicemente avevi mandato un messaggio agli organizzatori dicendo se vi va ragazzi, noi abbiamo un nuovo disco, vi piacerebbe suonare un sacco, e la tutta risposta, l'entusiasmo da parte loro dicendo assolutamente dovete venire, era qualcosa del genere, giusto? No, ancora più paradossale, perché i Magnetics hanno suonato in Messico, hanno suonato ovviamente quasi tutta Europa, ma Stati Uniti ancora no. Quindi non avevo idea che ci fosse una community che ci ascoltasse, tranne qualche, sai, le cose classiche di Spotify, però se sono due persone a Boston e 10 a New York, non è che è proprio una fan base, capito? Sì. Invece, insomma, mando sulla pagina del Supernova Festival, che è il Supernova Festival, è come dire il Bayfest dello ska, però in Virginia, in America, ed è lo ska fest forse più grande d'America. Ci ha suonato chiunque, dai pezzi grossi inglesi come, non so, i Bad Manners, gli Specials, eccetera, fino a gruppi latinoamericani, messicani, eccetera, eccetera. È proprio un festival internazionale. Allora scrivo dicendo: sono un fan del vostro festival, che bello che fate queste cose qua, così noi siamo un gruppo, facciamo dei tour, un giorno magari ci inviterete al festival se vi va. Due secondi questo mi scrive indietro, mi dice: ma io sono un vostro fan, c'ho tutti i dischi, dovete assolutamente venire. E io: what? Cioè, che non sono cose di tutti i giorni, insomma, perché di solito figurati, devi veramente aggrapparti ai vetri per poter strappare un sì a chiunque, che sia, sì, un locale, che sia un'agenzia, che sia un concerto. Quindi insomma, quello è stato proprio una botta di vita. No, fantastico, ci sta, infatti mi ricordavo questo bel aneddoto. Intanto su Instagram scrive Geo che è grandissimo, ero a Legend a febbraio, concerto top, e aspetta, e notizia un nuovo album, quindi sta riscuotendo comunque successo nonostante i vari tour, anche il discorso del appunto del nuovo album. Rientriamo solo un attimo in anticipo rispetto alla scaletta, quindi una domanda velocissima, poi ci andiamo a ascoltare un altro pezzo degli Shandon, sempre da Social Suicide, che sarà... che è Liar, appunto la vincitrice della challenge su Instagram, che ovviamente ormai è andata, per chi se la volesse rifare non c'è più oramai, perché ormai dovrete beccarvi il momento in cui era tirata fuori. Questo Liar come è saltata, come è venuta fuori? Era uno tra i primi pezzi insieme a quello del momento triste? No. Un'altra cosa. Ah, scusate mio figlio. Vai, non ti preoccupare. No, allora Liar è il secondo testo che ha fatto Max, che era molto arrabbiato per una questione di lavoro, diciamo anche molto personale, non posso bene raccontare tranquillo. I dettagli, però era incazzato come una iena, che non l'ho mai visto così affranto e arrabbiato e deluso e tradito così tanto. Lui tra l'altro è una persona molto sensibile, quindi piuttosto che esplodere lui implode. E con questa canzone mi ha, diciamo che si è sfogato un bel po', mi ha tirato fuori le frasi testa e corazon, si sono connessi, sono uscite così, e anche quella musicata in un giorno, pam, due giorni e c'era già tutta la canzone. E in effetti forse questa bomba di energia, di assimilazione, ha fatto tirar fuori il pezzo forse più bomba del disco, ecco. Poi c'è anche, perché il ritornello dimezzato comunque nel punk rock si fa poco, diciamo così, è una scelta un po' troppo rock forse, e specialmente nello ska core non si fa, quindi forse anche questa cosa ha un po' svecchiato il genere o comunque il nostro modo di fare, e sembra piaciuta istantaneamente, quindi siamo super entusiasti di questa freschezza del disco. Ci sta, ottimo. Intanto saluto anche Marcello, che è uno dei fiati attuale, ormai da diversi anni, si è ancora connesso. Seconda parte di Stormo Rock, sono sempre qui collegato con Oli degli Shandon, che stavamo parlando appunto di Social Suicide, il nono album degli Shandon, e nella pausa ovviamente un po' un sacco di nuove... di novità per quanto riguarda, che tra l'altro oltre al festival dove suoneranno i Magneti sono anche i Los Fastidios, quindi magari se qualcuno poi si vuole riascoltare tutti i vari fuori onda della radio, che poi rientrano nell'onda di Instagram, il video verrà caricato, e ovviamente c'era anche il podcast più avanti, solo con il discorso dell'intervista. Ma continuiamo a parlare sempre con Oli degli Shandon per quanto riguarda questo nuovo album, e ricordando magari se ti ricordi qualcosa, sicuramente c'è una lista infinita di date, se c'è qualcosa che ti ricordi nei prossimi mesi. Faccio figuracce, quindi me le cerco, me le metto davanti, almeno le vedo. No, fai pure. Io me ne ricordo una fighissima, dove sarà un euro può bastare allo Sherwood insieme ai Pancras, dove per voi Shandon è il discorso Social Suicide, per i Pancras invece è il trentennale di Paranoia Potere. Quindi questa è una bella combo a giugno, non mi ricordo bene quando, però vai pure con il resto delle date. Tra l'altro nel progetto di rifare le canzoni dei Pancras del disco ci siamo anche noi, quindi prima o poi credo che verrà pubblicata in qualche modo. Guarda, a breve facciamo un giorno di due date nello stesso giorno in Austria, che quella sarà una roba un po' strana, perché faccio un acustico di un'oretta in un posto, e a 200 metri c'è l'altro locale dove faremo l'elettrico tre ore dopo. Ah, quindi bello. Una roba assurda. E poi suoniamo, aspetta, ti dico subito, Crazy Fest in provincia di Piacenza, poi al Q Hub faccio un acustico con Andrea Rock e il Danno, che sarebbe il Dani delle Porno Riviste, il 28 sempre di maggio, Poi suoniamo al Park Rock di Cesena, quindi se siete, insomma, tra virgolette in zona, se potete prendere la macchina e fare qualche chilometro nella vostra regione odiata. Sì, sì, no. Da me no, sinceramente, da me no. Io ho un sacco di amici romagnoli, gli voglio un sacco di bene. No, no, scherzo. Vai, curati, vai. Poi vabbè, c'è il Mad One Spring Break a San Bionetta, che è quello è un festivalone figo, ci saranno i The Rozer, ci saranno i Bad Frog, i Rampled, eccetera. Quindi insomma, poi vabbè, suoniamo allo Sherwood con i Pancreas, ancora New Church in Austria, sempre un acustico. Insomma, ci sono diverse date, e però vi invito, visto che su agosto non abbiamo quasi chiuso niente, se sapete di festival o volete avere gli Shannon o i Magnetics o il Soul Rocket, o anche c'era anche quello, fateci uno squillo che noi organizziamo tutto do it yourself, fatevi sentire. Vabbè, quindi questo è un appello bene o male, oltre per chi sta seguendo la diretta di Instagram, anche se c'è qualche, diciamo, promoter che sta ascoltando la diretta anche di queste zone qua di Bologna, se vuole gli Shandon per agosto, nulla di problema, vi sentite direttamente. Una domanda che arriva da Instagram, appunto: Olli, farai altri album con i Fire? Domandone. Allora, il 2026 saranno 20 anni di Lover Drive, cioè il primo disco dei Lover Drive, dei Fire. C'era in ballo un'idea di fare non un tour, ma non so, 3-4 date, 5 date, non lo so, per celebrare quel disco lì. Però da lì a fare un album, insomma, vabbè che con gli Shannon è uscito così, ma non è sempre così. Quindi poi fare un album comunque c'è un costo sia di tempo che di soldi, e implica uscire, sponsorizzare, mille sbattimenti, per poi non fare un tour non avrebbe tanto senso, quindi la vedo un po' grigia. Sì. Magari pubblicheremo un singolo, non lo so, una roba del genere. Si vedrà, anche perché usate queste, da sto parlando un attimo dei Fire, queste comparsate qualche anno fa di 4-5 date, un po' sparse principalmente in Italia, ma qualcuna anche all'estero, poi mi sa che era finita un attimo lì. A parte che avevi suonato con questo super concertone per il tuo compleanno con Magnetics, The Fire e Shandon, quindi anche lì l'apoteosi per tutte le tue band. Penso mancassero solo gli Soul Rocket, questo nuovo il progetto lì, e basta. Sì, sì, sì. Beh, era un po' troppo un casino fare anche i Soul Rockets. Sì, quindi dici, va bene, accontentatevi di queste tre, perché direi che è più che sufficiente. No, ma poi è stato bello perché c'erano un bel po' di personaggi che sono venuti al compleanno, come Dinelli dei Hidden Feed, come Vinx dei Vanilla Sky. Poi ci sono state delle band, quindi è stato un bel compleanno, sono molto contento. Ero ingessato, però vabbè. Questo piccolo dettaglio, però dai, va bene, buono che sia andato tutto a buon fine. Verso gli sgoccioli della puntata di Stromo Rock, come qualcuno ha già fatto, se qualcuno vuole fare domande tramite Instagram può tranquillamente farlo, oppure mandare qualche messaggio al 333 180 94 94, oppure qualche mio amico che mi ha semplicemente mandato un messaggio e lo vedo la notifica che mi compare dalla tendina dicendomi appunto per stacanovista e che ci si sentiva bene, quindi sono quelle informazioni che utili, che dici guarda va bene, me la accetto, anche se non è un altro dispositivo, eccomi. Allora, direi che abbiamo un po' snocciolato abbastanza questo album. A sto punto è un discorso che vado sempre un attimo a fare. Questa copertina, che è un po' diversa bene o male da quello che è stato sempre proposto dagli Shannon, chi l'ha fatta e come mai questo elefante un po' incazzato? Ma ero un po' stufo di vedere le copertine dei gruppi rock o punk, eccetera, eccetera. Quando scelgono un animale, ovviamente devono mettere un animale cool, rabbioso, incazzato, e quasi sempre si scelgono orsi, lupi, tigri. Quelli che fanno un po' gli scemi mettono le scimmie, tipo, o il gattino, eccetera, eccetera. Allora io ho detto, ma un elefante? Perché? No, perché ho pensato, l'elefante ci rappresenta perché siamo dei boomer, e l'elefante è un po' boomer, dai. sì, perché è vecchio, datato. È datato, è saggio, capito? Cioè, però comunque c'è la sua incazzosità se lo fa incazzare, se no è super tranquillo. E poi mi piace perché in un certo senso rappresenta noi proprio le persone all'interno di questo gruppo da sempre, non sono state matte o degli scassoni, quindi diciamo che quella cosa pacifica dell'elefante un po' ci rappresenta. Poi sai, mai bevuto, mai fumato, un po' troppo cervellotico e riflessivo, mi ci trovavo in quell'animale lì. L'altro animale che mi piace è questo, guarda, te lo faccio vedere, vediamo se... cervo, tipo daino. Esatto. Okay. Sì, è un cervo. Okay. Perché anche quello è uno tranquillo, però se ti tira una cornata ti ammazza. Esatto. Quindi io sono un po' così, non mi arrabbio neanche se mi meni, ma se mi arrabbio è la fine. Divento proprio, tiro fuori la parte peggiore di me, ma non l'ha vista quasi nessuno perché interamente non mi incazzo mai. Quindi diciamo che la copertina parte da lì. È stata disegnata da Nick del Motor City, che sarebbero praticamente l'entourage. Aspetta, te lo dico bene perché non voglio fare figuracce. Fai, cerca. No, aspetta. Vabbè, comunque l'entourage sarebbe dei Bull Brigade, però. Ok. Nello Motor specifico... City. Vediamo prima di sbagliare. Ah, ecco, vedi, si chiama Motor City Graphics. Lui è veramente bravissimo a fare tutte queste illustrazioni che mi sembrano un po', sai, le grafiche delle tavole da skate degli anni 80-90. E io sono sempre amante di quel tipo di grafiche lì, e gli ho detto, ok, siamo sulla stessa pagina, fammi un elefante che possa ricordare una tavola del 93 di Mike Vallely, che c'era un pachiderma incazzoso, e quella tavola lì specificamente, che cazzo si dice, non lo so, si chiamava Double Deck, nel senso che è stata la prima tavola ad avere il fronte e il retro che era uguale, mentre le tavole del passato c'era dietro e il davanti. Il dietro era molto alto così e grosso, e dietro e davanti era piccolino. Mentre quella lì è stata la prima tavola ad avere il davanti e il dietro uguale, e da quel momento lì tutte le aziende di skateboard hanno cambiato. Quindi è proprio un life changing, capito, per tutto il mondo dello skateboard. Quindi nella mia testa questo disco è una sorta di life changing, quindi mi serviva quella grafica lì. Ok, perfetto, ottima descrizione, così è andato a snocciolare, per modo di dire, a spiegare per bene anche quello. Saluto Danilo di Friday in Punk, che anche lui si chiama come me, lo saluto, che sta seguendo la diretta. Ho visto in quel di Ferrara che c'era questo nuovo brand, per modo di dire, Punk Rock Veteran. Ah sì, sì, praticamente per le divise che dicevi, che hai visto nei nostri concerti, mi gasava l'idea di fare una cosa tipo di quasi militare, dove c'è scritto Punk Rock Veteran e c'è una toppa tipo sergente, così. È uscita questa grafica parlando con Frank, che anche lui è un tatuatore, quindi ci facciamo tutte queste pippe estetiche, e da lì è nata l'idea. Abbiamo fatto dei cappellini, le magliette, non è una vera e propria linea d'abbigliamento, è una cosa buttata lì per il nostro merchandise. Poi se per caso piacerà, bene, faremo qualcosa, se no muore lì. Siamo arrivati effettivamente agli sgoccioli di Letterman Rock, e quindi, come di consueto, come se magari ti ricordi, comunque te lo vado a dire, la mia ultima domanda scaricabarile è la solita, quella di conclusione. C'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? No, posso dire che sono contento di vedere una certa tendenza a tornare a uscire di casa, visto che sono stato molto critico negli ultimi anni, specialmente dopo il Covid, eccetera, eccetera, sul fatto che tutta la gente dopo il Covid diceva, no, durante il Covid diceva: ah, non vedo l'ora di un concerto. Poi per 3 anni non si è visto un cazzo di nessuno. Ecco. E non sto parlando dei nostri concerti, proprio in generale. Cioè, la gente usciva col contagocce a vedere l'unica cosa che si voleva permettere, perché si erano un po' abituati a divano Netflix, diciamo così. Mentre adesso, nell'ultimo anno e mezzo, c'è un po' un ritorno al voler uscire di casa. Poi sono molto contento per quelli che portano i bambini e non solamente i figli grandi, perché comunque i bambini, se non gli fai vedere che questa cosa esiste e li metti davanti a un telefono, sì. Sono tempo 14 anni, sono dei rincoglioniti, non vanno a teatro, non vanno al cinema, non escono, eccetera. Quindi devo dire che sono contento di questo piccolo cambiamento, nonostante tutte le varie crisi che ci sono negli ultimi 2 anni. Quindi vabbè, sono un po' più positivo, ecco. Ok, no, buono a sapersi. Come ti dicevo, sono effettivamente arrivato alla fine. Io, come al solito, ti ringrazio della disponibilità di essere stato qui con me un'ora, e ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie a te, grazie a voi della promo e... oh yeah, fateci sapere se vi piace il disco. Ah, ecco una cosa che volevo dirti velocissimo. Dico, se ascoltate su Spotify, andate oltre i 30 secondi, se no non pagano gli artisti, quindi non fate le merde che arrivate a 29 e schiacciate stop. È vero, bravo, lo ripete anche da live, è vero. È una cosa che non sapevo e effettivamente ci sta, dici, se mi ascolto il brano me l'ascolto effettivamente almeno per 35 secondi, poi dopo se non piace passo a quella dopo, però almeno i 35 secondi giusto per lo sbattimento che si è fatta la band è più che doveroso. Esatto. E io, come di consueto, a conclusione di Restoremo Rock, buon punk rock a tutti!